10. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, hola, attenzione 10. Chi è? Buonasera. Chi sei, Manuel? Hola, attenzione 10. Attenzione canale 10. Attento, Brigido. E beh, Brigido, come va? E anche io, ancora non devo passare. Mi sembri Brigido? Ciao Manuè, è tutto a posto, da mettere a posto. E ragava. Ma no, sei in macchina. A casa tua sì. Che niente, sono arrivato da mia zia, hai detto. Ah, ok, adesso ho capito. Oiui, a me me ne stanno succedendo di tutti i colori, Manuè. Oh, che sono di Roberto Biano, mi ha cavato le cose che tenevano in antenna ed era tutta messa male. Io già temevo me ne cadeva ieri notte. Perché fai rispetti come un bambino questo qui. Ah, va la torre Ariada a Firubella, che cazzo mi sono incazzato mentre una bestia è venuta. Sull'aereo si come? No, stamattina l'ha legata a donna, col filo di ferro, il palo. E il palo dell'antenna mia, di questa antenna qua che sto usando adesso. A chi, boh, non lo so cosa gli diceva la testa. Oh, la l'incazzatura che mi ha preso ieri, se non mi è giunto un infarto alle notti, non mi veni più. Lui può toccare la roba sua, ma se tocca la roba mia, mi incazzo, come se si mi incazzo. E io già lo disturbo già, però le sette spengo e lui la televisione se la può guardare, capito? Quello del terzo piano. E quello dell'ultimo piano. Chi c'è peggio di questo di un secondo? E già ne parliamo di persona quando ci troviamo, là. Ciao Brigido! E me ci comuni! Manuè, ho quel microfono in macchina tuo, che devo darti a te. Quando ti trovo te lo do. Ho un microfono che da darti. E poi, già sei YouTube la batteria, la mazza. Domani sto lavorando. Ma aspetta, io devo andare verso le 10 però. Posso passare un attimino e te la do con occhio di cade molto. Alle 7, alle 5 metri, sì. No, verso le 9 va bene. È troppo casino, c'è QRM. Ha detto va bene 9. Ma più tardi andare alle punte, magari io dare la seconda mano e ho finito al cancelletto. A meno che quando finisco faccio casa tua. Si spera che ora. niente, non si vincendi, sei sempre in casa. Brutto Pinocchio, gà. Va bene, ti chiamo alle 2:30, va bene. Dunque io senz'altro mangerò giù di nuovo, 1:30, l'una e un quarto, 1:30, dai, sono libero. Beh, Natali, e quindi cos'è questo macello che sta succedendo? E mi ha agganciato le corde che tenevano l'antenna in punta, il palo. Se non me ne caggio da rinotti, non me ne caggio più di Sant'Enna. Ma è un'ora amara. Tutto a me caffetteggiano i doni. Ma aspetta, te l'hanno sabotato o che cosa? O è da sola? No, sabotato, Durani. A chi ricordi non si scioglie né all'azzurra. Beh, non più che il soggetto sopra te, non può sì. Chi è che ci arriva là? Quello dell'ultimo piano è... Appunto, più che lui non può essere, ho detto. E tu non l'hai detto nulla? Sì, altro che non l'hai detto nulla, Ma ti ha dato un'incazzatura, Rinucci, guarda. Non è una promessa. Oia, ma come sono in campagna io? E da te, 9 euro che rubacchi alla tranquillità e cominciano a rompere le balle. Li trovi! Sono tranquillo, piantato in terra, lo baro, e adesso mi rompo le cattoli. E via, che bello. E non disturbo nessuno. E infatti, non c'è oro che lo paghi la campagna. E queste cose qua. Chi non sa fare? Vabbè. Beh, io l'antenna per via lì ha da tutto comunque. E vedava virume. Troppo maialetto stai mangiando. E questo fiorellino stava cercando a briciola poco fa. E chi questo fiorellino? E Cingomino stava cercando a briciola poco fa. Ma lui non è un fiorellino, lui è un fiorellone. Cingomone, la briciola, che gente. Te qua, vieni che la briciola. Manco io, manca tutto che... Niente, io ho fatto 4 giorni di trabacco, domani è il 5º giorno, ho fatto un bel lavoro, sono contento, è contento anche la persona in cui l'ho fatto. Ok, ieri sberigliando il cancelletto e ferro, tutto quanto portato a ferro crudo, stamattina una bella mano, collocano il fucile, ma è proprio contento, bello, bello veramente. Adesso domani sono la mano, ho finito tutto. E mi riposo un po'. Ma te l'immagini questo Emanuele? Stava chiamando a briciola stasera. Chissà cosa ha avuto a briciola, Ghiccio. Non è proprio la magnotta, pure ha preso la polizia un pezzo di ghiaccio, no? E sa chissà. Emanuele fa da bravo. Un attimo invece qua, mi è arrivato un messaggio audio e vorrei sentire cosa mi hanno detto, un secondo dietro subito. E cosa c'è Tony? Cosa c'è? Volevo lavarmi i pantaloni, quelli che ho usato per questi giorni di lavoro, ma devo fare anche domani. E per non sporcarmi mi continuo a mettere quei pantaloni sporchi e buonanotte. Oggi ho fatto una bella doccia. Rimane, vai da Finza, mi ero dimenticato di mettere la mascherina. E con la moletta, levigando, fa calendario, c'è certo dentro la pericia vecchia, il cancelletto. E suga, adesso fiamo il naso, dice, roba ruia. E Moggio non mi ha fottito, no. Ma la guante e tutto, tutto ruio io. La doccia è diventata ruia, gli trova, chiamami. E fa. E così, vabbè. Ma, e io voglio venire a Sassa a abitare, la tua ricasina lì, mamma mia. Luca la trema giù. No, già, se me la zecco, lontinaccio. Lontano di tanti, molti bianchino, usa il gioco, qualche zona, insomma, limitrofa. Non lo so, ma non proprio in città, città, no, no, no, per carità, non voglio ubriaco nessuno. L'ha giocato dopo un paio io, Ma ero fatto avere un carattere, è vero, se ti zecca nel caso è logico che ti incazzi. Chiunque è così. 1984. Chi si va in America non mi ha fatto peccare. Capito, Tani, però c'è un fatto che giustamente c'è gente che uno si incatta, l'altro si caglia appunto, io non so quel tipo che. Insomma. E me mi ero precato, e in da cazzola. Non so che io gioco con la prima, mi compreso. E cos'è? Chi dà su cane, su candy, fa scendere, cosa me la succhia in treno, un ciodo, così io si peccia un dito, così era manco. E si batte il dito a un buglione. E non peccia più. Chi c'è poco ma sicuro. E intanto vi giocaci con mio, dici quelle X, e a chi lo gioco io, è andata magna. No, ha detto che era controllente la pizza. La pizza. Ha preso un mese cucinando la pizza in casa, alla faccia nostra. Brutto papà, brutto. Oh, yeah, aspetta un attimino, se sei all'ascolto, correti per me. Ok, ciao ciao. Ciao, sì, sempre mo capire, tu mai che chiedi sempre. Tu se non mai che chiedi non sai già. Pensa un po'. Appena penso poi ti chiamo io. Ok, ciao Manuel. Oh Manuel.